7 del mattino e una manciata di secondi. La voce dell'Ariele vi arriva attraverso il microfono, tra l'altro un bel microfono, uno di quelli che costano, no? Non il microfonino da karaoke, eh? Così ogni tanto per incensare anche la frequenza Rock FM. Buona giornata anche al nostro Spadino in regia. Siamo pronti ancora col favore delle tenebre a dare inizio alla puntata 183 della colazione più rock d'Italia. Si chiama Pane, Burro e Rock and Roll, giovedì 14 febbraio 2008, l'anno della svolta, e c'è tensione nei nostri studi. Pane, burro e rock and roll. In attesa che arrivi anche Roberto Fricantoni. La colazione rock. Direttamente da Bologna, il nostro rocker di riferimento. Pane, burro e rock and roll. Tracutra, tracutra, tra, tracutra, tracutra, tra. It's every good day. Oh yeah. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Buona giornata Italia, o quel pezzo d'Italia che ci sente. Oggi punto alto, Spadino, capito? Esco dalla nicchia, ma che no, ci resto in pieno nella nicchia. Buona giornata dall'Ariele, puntata dedicata agli amici in macchina. Il pensiero, ogni tanto dei pensieri, sì, questa già è la prima notizia di quest'oggi. Quello di stamani era che volevo avvisare gli amici in macchina: non guardate il vostro vicino, quello dell'altra macchina, perché a quest'ora della giornata gli altri automobilisti, voi no, c'hanno delle facce veramente poco rassicuranti. Se vi capita di cedere alla tentazione di guardare il vostro vicino di autovettura, è pericoloso, perché lo capite subito che gna fa lui. E quindi vi viene subito un po' di paura, perché in macchina è sempre così, no? Cioè, io magari guido bene, ma quello di là, con sta faccia, è impossibile che guidi bene. E quindi non guardateli, guardate dritti, tranquilli, guardate la strada che è meglio. Dicevo, puntata che iniziamo con forte tensione, perché è il 14 di febbraio, sì. Non possiamo far finta di nulla. Presumiamo sia San Valentino. Abbiamo fatto decine e decine di riunioni di redazione per decidere se fare qualcosa per San Valentino. Oppure noi avevamo deciso di no, perché eravamo rock, perché siamo rock. Ma intravedo già i primi SMS, sarà dura, ma combatteremo. Che al solito qua, quando scrivete un SMS, no? Noi li leggiamo tutti, cioè... La trasmissione la costruiamo insieme, quindi se poi noi decidiamo di non far San Valentino ma voi lo volete fare, che la sfida abbia inizio. Intanto iniziamo con Lenny Kravitz, California. Yeah. California love. Lenny Kravitz. Che inizio moderno per questa trasmissione, no? Non ne sono veramente abituato. Grazie Spadino, complimenti per la scelta. Allora, dicevo, ovviamente i fedeli, magari anche con patente da vero rocker e perché no con calendario appeso da qualche parte, sanno che qui l'SMS e la mail la fanno da padrona, termine che adoro utilizzare. Quindi vi ricordo le coordinate anche per i timidoni, per gli ascoltatori e le ascoltatrici passive che magari oggi vogliono lasciarsi andare. Non abbiate paura, vi trattiamo, siamo in squadra insieme, no? Quindi, insomma. 335-100-7777, la casella di posta elettronica oggi bella gonfia perché sono ufficialmente iniziate le spedizioni del calendario 2008, l'anno della svolta. La ricordo all'alba del 14 di febbraio, tra l'altro, ma fa niente, questi sono queste sono inezie, così, puntiglitudini che possiamo anche non guardare. Ariel@radiorockfm.com. Sì, ho detto puntiglitudini. Dite che si può usare? Alle 7 del mattino si può, ve lo dico io. Ecco. Reduci dalla puntata di ieri dove abbiamo presentato un nuovo brano targato Jerry Phillips, il nostro mitico scorreggione con le mani, che dovreste trovare su myspace.com/paneburrofm, ma ci ho buttato un'occhiata e forse non è così. E questo Spadino, lo dico al mio regista perché per ora sei l'unico in questi studi, sappi che per questa cosa qualcuno pagherà. Questo qualcuno si chiama Isaac Rizzi, che adesso è ancora sul suo bel trenino che lo porterà in Piazza della Repubblica, ma quando arriverà qua sopra un paio di sberle ben assestate non gliele toglierà nessuno. Sì. Qui funziona così a Pane, Burro e Rock and Roll, eh? Se io e Freak non teniamo la redazione con le briglie belle strette, va tutto a carte e 48. Le coordinate ve le ho date e allora adesso si balla con i B-52s. Bye, bye, bye. già mi presentai, buona giornata dall'Ariele, già presentai il nostro regista Spadino, ma ho il piacere, l'onore, l'orgoglio di salutare Roberto Fricantoni anche in questo giovedì 14 febbraio. Grazie, ricambio prego. Il saluto prego. Con entusiasmo. Prego. Anche là fuori, naturalmente, il mio saluto è indirizzato anche ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll, ai quali vorrei dedicare, cosa? Se me lo consente DJ Ariele, sì? La consueta oramai ode all'almanacco. Non posso veramente mancarla, la prego. Ode all'almanacco, giovedì, la vita resta dura e lo speaker la misura. Ma resisti con Isacco, Spadino, Ariel e l'almanacco. Fantastica, mi è piaciuta lo speaker la misura, mi è veramente garbata parecchio. Sì, è molto verificabile, molto terrena, è molto pratica. È il 14 di febbraio, nel 1876 un certo Alexander Graham Bell fa domanda di brevetto del telefono, ma Pane, Burro e Rock and Roll non ci sta! Perché sa benissimo che i primi prototipi di telefono furono realizzati dal cittadino italiano, fiorentino per la precisione, Antonio Meucci. E al grido di arridateci il brevetto del telefono passiamo al 14 di febbraio del 1929. Sempre ricordando che il 14 di febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati. Per dunque la nostra festa. Voi che ci ascoltate, noi vorremmo non ricordare San Valentino, ma la strage di San Valentino. La strage è molto più rock. Siamo sempre più rock. Al Capone stermina la banda rivale di Bugsy Moran. Bugsy, sì. Sarebbe Bugsy, non so, sarebbe come Scarafaggio, Moran, no? Bugsy è... Ci guardi negli occhi miei della redazione il nulla. Bugsy, il Bugsy è il... non è... C'è ostracismo nei suoi confronti, lo sente? Ma non mi aiutate neanche un po'. No, non sappiamo, si appigli dove vuole. Ma no, Bugsy, dicevo, ragionavo sul fatto che uno si fa chiamare Bugsy, dalla radice, no? Bug. Ah, l'ho capita, la sto seguendo, ho preso. Bug sarebbe lo scarafaggio, no? Sì. Le dambaghi, queste cose. E Bugs Bunny? La pulce. No, pulce Moran. Ecco come si chiamava. Pulce. Forse non l'avrà sopportato Al Capone anche per una questione estetica. Ci dai, sta. Schiaccia questa pulce. Avrò detto così. Ci 1989. Un certo Ayatollah Khomeini condanna a morte Salman Rushdie, l'autore dei versetti satanici, considerato blasfemo dalla religione musulmana. E qui lo dice, questa notizia la dice lunga sulla tolleranza delle teocrazie. Se la cavò anche abbastanza bene, Rushdie ancora in giro, pubblica ancora sì, i libri. Sì, però passò un brutto periodo. Un filo sì. Chiudiamo con una brutta notizia, 14 febbraio del 2003, voi amanti che festeggiate San Valentino, ricordatevi che oggi nel 2003 morì la pecora Dolly. È il primo mammifero frutto di clonazione, che ricordate? Durò un pochino, qualche annetto. Ah, forse. Mi piacerebbe sapere esattamente quanto rimase in vita la pecora Dolly, perché insomma fu un clamoroso esperimento di clonazione andato a buon fine. Redazione, scoprilo subito. Yeah. Slide through my hands. you decided to show me the same. No sweet pain exists. Oh, off the stage lines could make me feel bitter. Colpi al cuore, mannaggia. Wild Horses, Rolling Stone. Senti che voce che c'ho al mattino, eh. Ciao dall'Ariele. A me è il duro compito, per estrazione, di gestire l'interattività di questo spazio, no? Con Frick si fa gli scemi, lì si fa gli almanacchi. Bravo, bravo. Va di là a mangiarsi le paste, complimenti. Bravo, bravo, un applauso. Bravo. E mi ripigliano gli Stones. E a me il duro compito di leggere i vostri messaggi. Va bene, lo faccio. Mi pagano perché non devo farlo. Dura però, oggi sarà veramente dura. L'ho capito immediatamente. Da quando, tentando di sbrinare la mia autovettura con la mia mitica paletta, pagata 1,20€, al gigante di Gallarate, sentivo radiogiornali, ovviamente si parlava di quello, è San Valentino, ragazzi. Ciao Ciro da Livorno, è il primo sms che ho ricevuto, tra l'altro datato 4:47 del mattino, buona giornata Ciro. Oggi sarai sommerso di sms di persone che si faranno gli auguri per San Valentino, ma davvero rocker patentato, il mio messaggio non è d'amore ma di odio. Quindi dovresti dire a Claudia che l'odio con tutto il mio cuore, grazie, è importante. Spero non sia la nostra Claudia, spero sia una Claudia tua, no? E questo messaggio vale solo per la Claudia sua, non per le altre Claudie che invece saluto e al quale mando un piccolo bacino del risveglio. Fa così. Buongiorno Ariele, stanotte ti ho sognato, sarà un presagio funesto, baci Ale. Dipende come mi hai sognato. Sarà provinciale, proseguo, ma per San Valentino faresti gli auguri con strombazzata a Benedetto Antonia, grazie Sacco Andrea. Bella Antonia. Rhythm of Love, I Remember You, Always Will Be, sono alcune canzoni love rock che sarebbe bello sentire oggi, che è San Lavandino. Auguri a tutti gli innamorati, Claude. Fa simpatico, eh? Intonandomi con la voce del portinaio Peretti dico... In culo le false festicciole mielose, io amo sempre Metal Chef. Bravo, sta venendo la voce di Remo Remotti. È da ieri che mi viene la voce di Remo Remotti. Ehi Ariele! Però non posso dirla in diretta perché dice solo parolacce Remo Remotti. Mentre godo di questa mail con la quale mi si è aperta la casella di posta elettronica stamane, un radioascoltatore che scrive... oggi è difficile, mi sono alzato prima del solito, vi attendo con ansia, è sempre più dura la vita di un edicolante rock. A proposito, ieri mia moglie mi ha fatto notare che Natale è passato e che magari è il caso di togliere Buon Natale però rock come suoneria dal mio telefonino. Voi cosa dite? Pesto duro contro il muro, ciao. Allora ti faccio una promessa, caro edicolante rock: se tu togli Buon Natale però rock, ti do un paio di settimane e ne metti un'altra, perché qui sta bollendo qualcosa in pentola negli studi di registrazione di Pane, Burro e Rock and Roll. Penserete, che se è un'altra canzone di Pane, Burro e Rock and Roll? Sì, sì, ma non mia e di Fricca, ah, no, no, no, no, no, no, no. Non di Spadino e Isacco Rizzio della redazione, no, no, no, no, no, no, no. Ci sono un paio di personaggi di Pane, Burro e Rock and Roll che stanno per fare una band. Sono due personaggi molto piccoli e di professione fanno le cavie da esperimento, ma non posso dire nient'altro. Nulla posso dire. Oh yeah!